diversi consigli comunali c'è la richiesta della sottoscrizione di un documento in cui ci si dichiara antifascisti. A Budrio non avviene? A Budrio devono ancora, l'amministrazione deve ancora portare una proposta di regolamento in consiglio comunale. Noi ci eravamo detti disposti a dare una mano alla stesura del regolamento, però abbiamo scoperto dall'incontro di ieri sera, c'è stato un incontro di Ampi a cui ha partecipato anche Mazzanti, abbiamo scoperto che Mazzanti ha delegato questa cosa agli uffici. Francamente non so, prima o poi si andrà in consiglio comunale con un regolamento, lo leggeremo, capiremo quali sono le barriere che verranno messe per limitare questo radicamento di queste forze antidemocratiche e fasciste, però al momento non sappiamo nulla. Sappiamo che ci stanno lavorando, ma io credo che ci stiano lavorando in queste ore perché ieri è scoppiata nuovamente la polemica, perché credo che davvero siamo a Budrio in una fase di grande difficoltà amministrativa e non credo che fosse tra le priorità di Mazzanti.